Buonasera, ben ritrovati qui presso il Centro Trevi. Questa serata è molto particolare, la Biblioteca Provinciale che solitamente organizza due iniziative alla settimana per favorire l'incontro fra autore, autrice e il pubblico e dare sempre nuovi stimoli alla lettura. Questa volta ospite del Centro Trevi ha come ospite d'eccezione Alba Costa Magna. Innanzitutto la ringrazio di essere qui con noi, come ringrazio la dottoressa Costa e Don Lampis. Alba Costa Magna è stata fino al 2005 la direttrice di Galleria Borghese e dal 2013 ha donato la propria biblioteca privata alla Biblioteca Provinciale Claudia Augusta, che da una decina di anni raccoglie alcune delle più significative biblioteche e cataloga i libri, ma soprattutto poi ha l'ambizione di fare uno studio su quelle che sono le scelte bibliografiche delle persone che ci hanno donato questi libri, perché appunto attraverso le scelte di lettura e la propria biblioteca si può anche cogliere il percorso di una persona, la cultura, quella che è stata la propria formazione, ed è sempre importante e interessante avere anche questo tipo di testimonianza e ereditare, ricevere dei fondi che possono così anche integrare la collezione che la biblioteca va via via integrando e sviluppando. La collezione della dottoressa Costa Magna è una collezione prevalentemente incentrata su libri di storia dell'arte ed è molto cospicua, perché parliamo di 1200 libri, quasi 1300 volumi, sono stati tutti catalogati, sono reperibili sul nostro sito online e digitando appunto il nome Costa Magna, perché hanno questo legame virtuale che li unisce, potete avere un'idea di quello che è il patrimonio, di quelli che sono i titoli che caratterizzano questa raccolta importante. È una raccolta che ha dato uno sviluppo particolare al settore della storia dell'arte, un settore che la biblioteca sta coltivando, curando, e rientra in quelle che sono le nostre missioni, tra virgolette, per questo è un po' un gergo biblioteconomico, e che ci siamo così distinti tra biblioteche. Noi andremo nel polo bibliotecario tra qualche anno, quindi con la biblioteca civica e la biblioteca Tesman abbiamo deciso di fare una carta delle collezioni e suddividerci alcuni ambiti di interesse dove poter sviluppare le collezioni ed offrire al pubblico dei libri di particolare pregio e livello. In questo senso appunto abbiamo avuto un grande contributo con questa donazione. Ringrazio pubblicamente la dottoressa Costa Magna per questo grande atto di generosità, che non è frequente, insomma non è proprio una cosa così usuale, ma che permette a molte persone di accedere a dei documenti che altrimenti non sono sempre così facilmente reperibili o disponibili alla pubblica utenza. Io mi fermerei qui perché abbiamo adesso una piccola sorpresa per voi, vogliamo vedere un filmato e poi cedo la parola ai due colleghi. Grazie. Direi che andiamo avanti e se riusciamo questi ultimi due minuti li vediamo alla fine. Ecco, così. Sì, andiamo avanti, casomai che sono le figure, li vedremo eventualmente alla fine. Ecco, io sono Antonio Lampi, sono il direttore della professione Cultura Italiana e appunto questa che avete visto è stata l'iniziativa che in collaborazione con Galleria Borghese, che ha portato da Rocco del Corno a Bolzano, è un allestimento appunto ideato sulla guida di Cristina Costa, si poteva vedere il capolavoro passando per 7 stanze di approfondimento su tanti temi, appunto, che poi la dottoressa Costa magari potrà appena accennare e poi diamo la parola alla nostra ospite. Io vi porto il saluto del vicepresidente della Giunta e il nostro assessore alla cultura, che appunto ringrazia ancora una volta Alba Costa Magna di questa donazione. Lo potete immaginare anche la mia sorpresa quando lei appunto ci scrisse questa email, che intendeva donare il suo patrimonio librario, non Devo anche ringraziare Valeria Trevisan per tutto il lavoro che il suo staff e lei soprattutto hanno svolto per catalogare e valorizzare poi in futuro sempre di più questo lascito, ma proprio ancora un grazie alla nostra mano. Quell'operazione di prestito, in cambio Galleria Borghese ci chiese non tanto dei denari, ma un'idea amministrativa molto originale che venne alla Terza Costa, di restaurare un'opera che allora non era così in auge come dopo alcune mostre importanti da resero, anche questa palla di Garofalo. Il resto ve lo racconta Cristina Costa. Buonasera alle signore e signori, signore Fiumerose. Per prima di tutto vorrei raccontarvi il finale di questo filmetto, perché siamo rimasti tutti un po', anche perché il finale è la parte più divertente, più interessante. Avete visto che si tratta della testimonianza di questo percorso espositivo che attraverso le produzioni abbiamo dedicato alla Dama con le corna di Raffaello, prestataci dalla Galleria Borghese. Il finale del percorso prevede l'uscita della visitatrice, che noi intuiamo attraverso le immagini che abbiamo visto. Il filmato infatti è realizzato con una modalità che si dice essere insoggettiva, cioè vale a dire come se avessimo una telecamera montata sulla fronte e percorressimo e visitassimo i luoghi. Allora, la visitatrice ipotetica esce dalle stanze dopo aver visto e ammirato la dama con il mio corno, si allontana verso la porta d'uscita, ma sulla schiena rimane proiettata l'immagine della dama. In qualche modo la visitatrice si porta via con sé la dama, comprese non sulle dame, non sul particolare, si porta via questo ricordo. Vale la pena citare l'autrice di questo filmato, che è Katia Bernardi, una giovane regista trentina che ha realizzato moltissimi lavori documentari davvero di grande interesse, persona di vero talento. Ecco, molto altro non vorrei aggiungere, tranne che la dottoressa Costamagna ci ha dato la possibilità di portare quest'opera famosissima a Bolzano, di costruire un evento intorno ad una sola opera, che ha visto 12.000 visitatori in 30 giorni qui al Centro Trevi, fatto questo davvero eccezionale. È un evento, una mostra che in qualche modo ha fatto, si lega alla storia della città, come in termini di partecipazione, di apprezzamento e di comprensione, soprattutto da parte del pubblico. È stato un po' l'apice di un lungo percorso che l'ufficio e la ripartizione cultura hanno fatto per una serie di anni di esplorazione del patrimonio artistico italiano, ricercando modalità di proposta di queste opere alternative rispetto a quelle che musealmente vengono offerte alle persone interessate. In questa occasione specifica noi ci vantiamo di essere riusciti ad attirare un pubblico alternativo rispetto a quello che normalmente frequenta i musei o gli eventi espositivi, e di essere riusciti a far passare un concetto attraverso il quale un visitatore potesse uscire dicendo ho capito, anziché non semplicemente mi piace o non mi piace. Il fatto che secondo me non appartiene ai veri, autentici meccanismi di apprendimento. Ecco, questo appuntamento epocale è stato seguito dalla esposizione degli esiti del restauro disposto sulla conversione di Paolo del Garofalo, che abbiamo restaurato in contraccambio al prestito che la dottoressa Costamagna, con grande sensibilità e prontezza, devo dire anche, ci ha concesso su nostra richiesta, e anche in quell'occasione la proposta si è articolata in termini didattici, propedeutici, perché tutte le fasi del restauro sono state esplicitate attraverso un percorso facile, comprensibile, che portava anche allora alla, alla contemplazione della pala completata, restaurata, rifinita. Ecco tutto qua. Grazie, grazie mille. Dunque, all'inizio del 2013 ho cominciato ad avere un dilemma su che cosa fare dei libri che durante gli anni si erano accumulati dentro la mia casa, fin dall'epoca più o meno della terza liceo, al 2005, al giugno 2005, quando ho lasciato l'amministrazione dei beni culturali e sono andata in pensione, e mi arrovellavo sulla sede da proporre per la donazione, perché indubbiamente desideravo conoscere in tempi brevi e sicuri la destinazione, anche l'inventariazione e la messa a disposizione pubblica di questo patrimonio librario, trattandosi di quelli che posso considerare i miei preziosi amici. I miei più preziosi amici sono, sotto certi aspetti, gli animali che hanno accompagnato la mia vita, insomma, per carità, poi gli amici umani e piperi, ma insomma, stavo facendo delle battute scherzose. Mi è venuto in mente, durante questa riflessione, un film che avevo visto nel 1966 di François Truffaut, che si chiama Fahrenheit 451, che è il grado di combustione della carta e che prende il titolo da un romanzo di fantascienza dell'americano Roy Bradbury, e che racconta appunto di come il potere, per avere il controllo dei cittadini e del loro pensiero, decide di sfruttare i sistemi televisivi e ordina di bruciare tutti i libri con falò pubblici. E di questo sono incaricati dei pompieri che entrano anche nei domicili privati, arrestano le persone che possiedono biblioteche e fanno questi falò. E alcuni eroi imparano quindi a memoria i testi per poterne conservare la memoria e tramandarla ai posteri. Ora, non è che si tratti ancora di una situazione del genere, però quello che anche il mondo contemporaneo offre a livello di insulti continui, di distruzioni di monumenti e di fatti culturali, fa pensare che forse questo romanzo di fantascienza, tanta fantascienza non è, sotto certi aspetti, come i film di, non so, Odissea nello spazio, almeno Odissea nello spazio o quant'altro, sono state delle previsioni pessimistiche e romanzate di una realtà più o meno immanente. E allora, tra le varie sedi, mi è venuto in mente, dico, ma con chi mi sono trovata meglio a livello di rapporti corretti e anche pragmatici per raggiungere un risultato? E mi sono ricordata appunto di Bolzano. Questo perché io sono sempre stata una persona che ha cercato di raggiungere sempre un concreto risultato nel momento in cui mi era affidato un incarico, oppure nel momento in cui ero convinta che fosse giusto perseguire un determinato risultato. E questo poi lo capirete un pochino sommariamente alla fine, con alcune esperienze che ho avuto nell'ambito proprio del lavoro quotidiano presso la soprintendenza di Roma. E questo rapporto mi aveva molto soddisfatto, perché di fronte alla loro richiesta di prestito, come ho sempre fatto poi, sia quando ho lavorato a Napoli che quando ho lavorato e riaperto la Galleria Corsini, perché nell'80 ho anche riaperto la Galleria Corsini, che era chiusa da più di 20 anni, a Palazzo Corsini, dove è l'Accademia dei Lincei a Roma, e poi fra il 96 e il 97 la Galleria Borghese. Però tutti si ricordano solo di questo, perché la Galleria Borghese è indubbiamente più famosa, più importante, sia di capolavori che espone di altri musei. Hanno capito i funzionari di Bolzano che fosse anche giusto dare in cambio del prestito di un sommo capolavoro come La Dama col mio corno qualche cosa di culturalmente importante alla Galleria Borghese, che sarebbe rimasta priva di questo capolavoro per diversi mesi. E hanno quindi consentito, con un budget economico che la galleria e la soprintendenza non avrebbe mai potuto avere, perché era un restauro che veniva rinviato da più di 20 anni, l'analisi diagnostica e quindi poi lo studio metodologico per raggiungere il migliore risultato a livello di intervento di restauro su questa tela di Garofalo, che in origine era una tavola e che è stato il primo trasporto di tela su tavola dell'Ottocento, con tutto quello che ha comportato a livello di danno dell'opera stessa. Quindi era un intervento molto complesso e costoso, e di nuovo li ringrazio perché lo hanno reso possibile. E quindi ho pensato di fare una proposta che è stata accolta. E sono stati diciamo corrispondenti a quelle che erano le mie previsioni tutte le successive operazioni, perché io l'offerta l'ho fatta a maggio, le opere sono partite da Roma i primi di settembre e oggi appunto celebriamo, diciamo, la conclusione dell'opera e la pubblicità della stessa. Allora, fra i vari libri diciamo più preziosi, così volevo citare la prima traduzione italiana dal francese dei monumenti, l'histoire dell'art, monumenti italiani di Seruda Gincourt, scritta in francese fra il 1808 e il 1823 da questo signore, che era un nobile francese, figlio di un commerciante nominato marchese da Luigi XVI, che era stato anche deputato della Convenzione all'epoca della Rivoluzione francese e che poi, essendo comunque un deputato moderato nel momento del predominio dei Giacobini, fu anche arrestato. Sotto Napoleone è tornato libero e ha preso a girare per l'Europa ed è stato anche in Italia. E secondo il metodo dei conoscitori ha girato a piedi in carrozza per l'Italia, notando tutti i monumenti sia a livello di architettura, pittura e scultura, dandone un rendiconto molto preciso e puntuale. Questo testo e anche altri suoi testi sono importanti perché questo intellettuale ha dei lati molto moderni, tra cui ha un pensiero assolutamente contrario a quella che è stata la politica di rapina di Napoleone nei confronti delle opere d'arte di tutta Europa. E perché lui affermava che un'opera d'arte conserva il suo valore se resta nell'ambiente nella cultura che gli ha prodotto. Quindi rendetevi conto di come questo signore, nato a metà Settecento, fosse di idee moderne e rivoluzionarie, perché è un concetto che si fa fatica ad affermare anche nei nostri giorni. Poi c'è l'edizione originale del 1883 dei Principi tradizionali delle arti figurative di Bartolomeo Soster, che è un incisore e pittore veneto che ha studiato con Giuseppe Longhi, che era un pittore e incisore amico di Antonio Canova, all'Accademia di Brera. Un documento importante e interessante sono poi le tavole illustrative della Divina Commedia, che è un'opera del 1855 di Michelangelo Caetani di Sermoneta. Ai nostri giorni questo signore è ricordato perché dà il nome alla strada dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro a Roma, via Caetani, ed è il discendente, uno degli ultimi discendenti di Papa Bonifacio VIII, il Papa che nel 1300 ha proclamato il primo giubileo. Era un famoso intellettuale romano dell'Ottocento, un famoso dantista, era amico di Chateaubriand, di Stendhal, di Liszt, di Balzac, del scienziato Ampère, degli storici Mommsen, Gregorovius, e di artisti come lo scultore Thorvaldsen e il pittore Minardi. Inoltre, siccome era anche, si dilettava di oreficeria, ha disegnato dei falsi etruschi, dei falsi modelli etruschi di oreficeria per l'orafo Castellani, e tutto questo fondo molto divertente e bello e anche interessante che costituisce il fondo Castellani è esposto in vetrine nel Museo Etrusco di Valle Giulia a Roma, ed è stato anche presidente della Giunta di Roma dopo la presa di Porta Via nel 1870, e proclamò appunto il referendum che fu fatto a Roma per l'annessione di Roma allo nuovo Stato nazionale. In queste tavole illustrative dantesche lui rappresenta quello che secondo le sue conoscenze dantesche sono le situazioni dell'inferno, del purgatorio, del paradiso a livello di settori, di cicli, ed è molto interessante da leggere e da guardare. Poi le commedie di Canto Goldoni e le tragedie di Shakespeare tradotte in italiano intorno al 1920, che si segnalano per i frontespizi freddi di Duilio Cambellotti, che è un artista famoso anche per essersi dedicato alle cosiddette arti applicate, e ha questo segno molto forte e vigoroso che ricorda anche la sua arte litografica e i suoi disegni per vetrate. Ha disegnato moltissime vetrate, come nella villetta, la casina delle civette a Villa Torlonia a Roma, ma insomma in tutta Italia ci sono degli esemplari che gli appartengono. L'anonimo romano del 300, con la cronica che riguarda soprattutto la vita di Cola di Rienzo e la situazione del papato nella cattività avignonese da Clemente VI in poi. Devo quindi dire brevemente che io ho cominciato a occuparmi di storia dell'arte al liceo classico Tasso di Roma, che è un liceo vicino a Piazza Fiume, via Sicilia, insomma, dove hanno studiato in passato, fra gli altri, non so, Vittorio Gassman, sua figlia Paola Gassman, Andreotti, i figli di Mussolini, perché Villa Torlonia è abbastanza lì vicino, con una tradizione molto seria e pesante di studi. Ma per la storia dell'arte c'era una signora entusiasta e affascinante di nome Carla Guglielmi, che ha fatto dei proseliti sia nel campo dell'archeologia che della storia dell'arte. Infatti molti suoi ex allievi sono diventati professori di archeologia all'università o archeologi in ambito di sovrintendenze, come appunto Guzzo, Piero Guzzo, Adriano La Regina, Antonio Giuliano, poi Bruno Contardi, insomma dei miei colleghi storici dell'arte. E perciò fra i vari testi che ci sono nella donazione c'è anche una raccolta di scritti di suoi allievi che le abbiamo dedicato nel 1989, quando lei ha compiuto appunto 70 anni. e lei è, diciamo che rappresentava nel campo dell'insegnamento della storia dell'arte la corrente longhiana, perché lei adesso tira fuori Longhi, perché praticamente negli anni 40 fino alla fine degli anni 80 la situazione culturale nel campo dell'insegnamento della storia dell'arte in Italia è stata un campo quasi di battaglia fra Longhi e la scuola fiorentina e la scuola romana rappresentata da Leonello Venturi e poi da Giulio Carlo Argani. Entrambi, sia Leonello Venturi che Longhi, discendevano da Adolfo Venturi, che era il padre, fra l'altro, di Leonello. Ma mentre Longhi sceglie, in corrispondenza di quelli che erano i suoi interessi, la linea del commissario, ossia di quello dello studioso che riconosce le caratteristiche stilistiche di un artista e ne studia a fondo l'opera dal punto di vista così semantico, Leonello Venturi intende la storia dell'arte come una scienza autonoma rispetto alla storia religiosa e civile e come una storia della critica d'arte, non intesa però come storia della letteratura artistica come era stato per esempio all'epoca di Schlösser, ma come dichiara proprio nella sua storia della critica d'arte del 1936 e nella donazione, cioè la prima edizione del 1964, successiva a questa del 1936, come storia di quello che è stata la reazione dell'artista stesso, dei contemporanei e quindi degli intellettuali che si sono succeduti nel tempo e nei secoli rispetto a quell'opera d'arte, quindi come è stata interpretata l'opera d'arte attraverso il tempo fino al momento in cui è giunta a noi, che la analizziamo con una sensibilità e con degli strumenti che sono diversi da quelli del passato. Indubbiamente al nostri giorni abbiamo degli strumenti, intendo soprattutto le analisi diagnostiche e stratigrafiche, che consentono di conoscere in maniera più approfondita, senza dubbio, le tecniche, anche quella che è eventualmente lo studio dell'opera d'arte nel momento del suo fieri. Ci sono appunto le incisioni sulla tela di preparazione in Caravaggio, ma insomma non voglio adesso dilungarmi su questi fatti perché altrimenti non si finisce più. C'era quindi questo contrasto fra la scuola fiorentina e la scuola romana con le tigi terrificanti, cioè io anche mi ricordo. Per cui dopo aver avuto al liceo Carla Guglielmi, all'università per la storia dell'arte medievale mi sono incontrata con il professor Gezza De Francovic, che era un allievo anche lui di Adolfo Venturi e di Pietro Toesca, filologo, quindi di corrente filologica, anche favorita dal fatto che si è occupato moltissimo di pittura bizantina, di Benedetto Antelami, di scultura del legno, quindi per quello che riguarda le opere d'arte medievali, dove le fonti e i documenti sono indubbiamente più scarsi, è fondamentale l'occhio del conoscitore. Con Argan invece è tutta un'altra storia, perché Argan indubbiamente, a parte una personalità dirompente, affascinante, una sicurezza e padronanza anche degli strumenti linguistici e metodologici assoluti, per cui lui abbagliava l'assemblea degli studenti durante le sue lezioni di metodo, l'approccio è assolutamente diverso e più ricco, nel senso che confluivano in quelle che erano le sue letture sulle opere d'arte i metodi tratti dalla lettura di critici, suoi amici contemporanei, molto molto complessi, e fra i testi di Argan presenti nella donazione ci sono la guida alla storia dell'arte del 74 e soprattutto le lezioni di storia dell'arte moderna dell'anno accademico 73-74, che è molto importante perché praticamente sono le ultime lezioni di Argan, perché nell'anno accademico successivo ebbe un gravissimo infarto, per cui non è mai più tornato a fare lezioni all'università, ha portato soltanto a termine, diciamo, i suoi impegni di relatore per le tesi, ma e poi nel 76 è diventato sindaco di Roma, quindi ha preso tutta un'altra strada che è stata quella dell'impegno politico, prima al Comune e poi al Senato. E in queste lezioni di storia dell'arte leggetele, perché anche se sono scritte insomma in parte da me, che allora ero una giovane laureata insieme a due amici, Piero Carreras e Michela Di Marco, c'è molto di quello che era il fascino di queste lezioni, con la capacità di affrontare l'opera d'arte con un impatto critico che era essenzialmente all'inizio visivo, tipo guardate se c'è una luce che viene dall'interno, dall'esterno, se ci sono delle notizie sul retro della tela o della tavola con un cartellino inventariale, una firma o quant'altro, che se prevalgono gli elementi verticali o orizzontali, quante figure ci sono in primo piano, quante in secondo e in terzo piano, insomma un avvicinarsi ai singoli problemi partendo da una visione complessiva e arrivando fino al dettaglio. E in questa analisi che lui faceva a livello di metodo di lettura confluiva sia il riferimento alle fonti, che sono fondamentali per la storia dell'arte, perché spesso uno trova delle notizie di opere che nel tempo sono state nascoste per le vicende più diverse, perché trasportate, soprattutto quando si tratta di chiese o anche di collezioni private, da un ambiente a un altro, magari non si sono più viste. Per esempio la stessa famosa scultura di Canova di Paolina Borghese, a un certo punto, quando Camillo Borghese, dopo essere stato rivoluzionario a Parigi e poi governatore di Napoleone a Torino, ed è lui il padrino di Camillo Benso di Cavour, perché il nome Camillo Benso di Cavour viene dal fatto che Camillo Borghese fu il padrino, appunto, questo per inciso, è tornato a Roma dopo il divorzio anche da Paolina, con l'ambiente così piuttosto ristretto che era tornato a trionfare a Roma, decide di togliere dalla visione del pubblico, anche se era ristretta quella dei suoi amici, insomma conoscenti, questa scandalosa scultura che finisce nel sottoscala di Palazzo Borghese, dove resta per decenni. Quindi è una cosa che riguarda quest'opera. Oppure restaurando la Cappella Rucellai, per esempio a Sant'Andrea della Valle, togliendo dei velari che coprivano delle lunette dall'Ottocento in poi, si sono ritrovati delle pittura d'olio di Cristoforo Roncalli, che ricordava il Titi nelle sue guide del Settecento, ma che poi nessuno aveva più visto. Quindi l'importanza delle fonti, e nella mia donazione praticamente le fonti più importanti ci sono tutte, dall'Armenini, che è della fine del Cinquecento, a Vasari, Baglione, Bellori, Antonio d'Este, lo stesso Karel van Mander, per tutte quelle che sono i pittori fiamminghi olandesi, l'opus architettonico di Francesco Borromini, i diari romani di Giacinto Gigli, le vite di Leone Pascoli, che sono del Settecento, e anche un testo raro che si conserva all'Accademia dei Lincei, pubblicato nel 1956, che sono le considerazioni sulla pittura di Giulio Mancini, che è uno scritto del 1623-24, che è il primo testo critico dove si parla, per esempio, di Caravaggio. quindi le fonti. Poi un altro punto fondamentale che determina la metodologia sia a livello appunto accademico e poi di studio è quello dell'iconografia, ossia il riconoscimento di quelle che sono le scene che uno analizza e visiona durante il suo studio, anche semplicemente una visita in un monumento, in un museo. E qui ci sono, il dizionario dei simboli, dei miti, dei sogni, costumi, gesti, forme, figure, colori e numeri di Jean Chevalier, Arnold Pigler, Baroffeme, Nigel Oswald, von Verzagnissen, zur Iconografie des 17. und 18. Jahrhunderts, che è un testo molto raro, che a suo tempo perché era stato pubblicato a Budapest, quindi quando c'era ancora la cortina di ferro, un testo del 74, e soprattutto un testo che noi studiosi dell'arte abbiamo letto più volte in francese, perché l'edizione francese del 32 era consultabile solo in biblioteca, di Emile Mahan, che è l'arte religiosa del 600, Italia, Francia, Spagna e Fiandra, uscita con il titolo Il Barocco nel 1984, che è un testo prezioso, sfarzoso e sapiente, come la maggior parte dei testi di studiosi francesi che sono presenti nella mia donazione, come André Chastel e Frédéric Cantat. In questo libro Mala analizza i modelli iconografici più importanti e li studia anche dal punto di vista culturale, anche semantico. Per esempio, adesso siamo in periodo di Quaresima, analizza l'origine del nome di Maria, che deriva dall'aramaico, dall'ebraico Miriam, che significa mare. Quindi tenete presente che Venere nasce dal mare, c'è un collegamento anche con quello che è il mito antico di Venere, nel fatto che si chiami Maria, quindi spuma di mare, la madre di Dio. E Betlemme, dove nasce Gesù, significa paglia, e Gesù viene come bimbo messo sulla paglia della mangiatoia di Betlemme. Si chiama il Nazareno da Nazareth, e Nazareth significa in aramaico, in ebraico, grano e pane. Quindi appunto c'è il discorso del pane che diventa l'ostia. E se a seguito dell'iconografia un ambito specifico che è l'iconologia, il cui termine originale deriva da un testo che è l'iconologia di Cesare Ripa, di cui la donazione presenta l'edizione del 1992, l'originale del 1593, ed ha per ogni singolo argomento iconologico e simbolico la identificazione della fonte letteraria, che può essere anche filosofica, oppure l'iscrizione di una moneta romana, e che viene ripreso spesso dai pittori e dagli incisori del 4 e 500. Diciamo lo studioso principale di questa materia negli anni 30, seguendo il dettato della scuola di Warburg, che prende il nome dalla biblioteca di Abi Warburg, che era un ricchissimo signore tedesco con una biblioteca immane, ricca di qualsiasi, probabilmente era quasi tipo la biblioteca di Alessandria, che durante l'avvento del nazismo si rifugiò a Londra, e dove riuscì a portare gran parte della sua biblioteca a salvarla, e questa è adesso consultabile in quello che il Warburg, anzi loro in inglese mi hanno cambiato, il Warburg Institute, però appunto discende da di Warburg ed è una biblioteca ricchissima, illimitata. E questa, la scuola di Abi Warburg ebbe il suo massimo rappresentante negli anni fra il 30 e il 70 in Erwin Panofsky e poi in Rudolf Witkower, ma soprattutto Panofsky, e comunque anche di Witkower ci sono i suoi testi fondamentali su questo argomento. Di Erwin Panofsky, il significato nelle arti visive, gli studi di iconologia, i temi umanistici nell'arte del Rinascimento, Rinascimento e Rinascenze nell'arte occidentale, dove parte addirittura dal Medioevo, e poi la sua famosa biografia La vita e le opere di Albrecht Dürer del 1967, dove appunto ha modo di entrare in dettaglio nell'analisi di tutta quella che è la produzione grafica, teorica e anche pittorica di questo grandissimo artista tedesco. E abbiamo aperto il libro su quella che è la grande fortuna, la famosa incisione del 1500 circa, dove si vede la valle dell'Isarco e la grande fortuna con la coppa che passa sulle nuvole digrignando i denti, quindi è una fortuna minacciosa e non a caso, ecco qui l'importanza della lettura delle fonti, in questo caso dello stesso autore, nei suoi diari di viaggio in Italia del 1505-6 la cita, siccome si mantiene vendendo le sue incisioni, la cita come nemesi, non come grande fortuna, come conosciuta appunto con titolo dalla critica. Nemesi perché è vendicatrice, non è, è una specie di Pandora cattiva. Di Witkower, I nati sotto Saturno, la figura dell'artista dall'antichità alla rivoluzione francese, con la ripresa di questo convinzione anche filosofica oltre che culturale, che l'artista nasce sotto Saturno e quindi il carattere melanconico, allora anche qui c'è un riferimento alla melancolia prima di Dürer, perché la creatività è legata a questa caratteristica che è la melancolia. La melancolia, per usare il termine greco. Il simbolismo pure delle piante e dei fiori che Giulia Caneva descrive e approfondisce nel mondo di Cerere, nella loggia di Psiche a Villa La Farnesina, identificando tutte quelle che sono le essenze antiche, anche quelle appena conosciute dopo la scoperta dell'America, e gli studi sulla committenza e il collezionismo, che soprattutto è un contributo degli studiosi inglesi e americani fra gli anni 1960 e la seconda metà del Novecento. I cui antesignani sono soprattutto Haskell, con mecenate e pittori, l'arte della società italiana nell'età barocca, riscoperte nell'arte, aspetti del gusto, della moda e del collezionismo, Tess and the Antique, l'ultimo che è del 1981, scritto insieme anche a Nicola Stern. Per il collezionismo c'è lo studio, il collezionismo che ci sono diversi libri, cito diciamo quello più recente nell'acquisizione della mia biblioteca, che è la collezione Giustiniani di Silvia Danesi Squarzina del 2003, che è uno studio complessivo anche legato allo studio degli inventari di quella che era la collezione Giustiniani, sia di opere d'arte antica che di opere d'arte pittorica. E questo studio è molto importante perché attraverso la lettura degli inventari, per esempio, si è giunti a una chiarificazione di quella che è la data di pittura del famoso Amore vincitore di Caravaggio, che era dagli studiosi attribuito agli anni tra il 1604 e il 1605, invece è venuto fuori sicuramente, siccome il committente è stato il marchese Vincenzo Giustiniani, che l'anno è il 1602, in quanto fece una richiesta analoga anche a Baglione. Baglione ha creato un quadro che ha per titolo attuale L'amor sacro e l'amor profano ed è esposto a Palazzo Barberini a Roma, mentre Amor vincit omnia, omnia vincit amor, anzi, è esposto ormai da circa un secolo a Berlino, agli Stati che Museo di Berlino. Per la documentazione archivistica barocca è fondamentale il testo di Hermann Foss del 1924 di Malereides Barock in Rome, dove vengono pubblicati praticamente tutti quelli che sono gli inventari che lui ha consultato non soltanto negli archivi pubblici ma anche in quelli delle collezioni principesche e dei vari ordini, gli ordini principali di Roma, quelli dei Teatini, dei Gesuiti e degli Oratoriani, per esempio è uno studio fondamentale per le opere che Rubens ha dipinto a Roma, a Santa Maria della Vallicella. La sociologia poi, con il contributo quindi della scuola marxista rappresentata da Arnold Hauser, con l'arte popolare di masse d'avanguardia, la teoria generale, la dialettica nel creare e nel fruire, con il contributo quindi di un rapporto con la sociologia, la percezione visiva e la psicologia, con Rudolf Arnheim, il suo testo sulla percezione visiva, e Sigmund Freud, partendo da un testo fondamentale che è Leonardo da Vinci, Mosè di Michelangelo, in cui appunto studia per la prima volta viene studiata da un illustre psicologo in chiave psicanalitica la Mona Lisa di Leonardo, che appunto ormai tutti lo diciamo che è un autoritratto, ma insomma è stato Sigmund Freud per primo a parlarne come un autoritratto di Mosè di Michelangelo. È un testo bellissimo di Marc Fumaroli, forse non dovrei dirlo, ma insomma è La scuola del silenzio, il senso delle immagini nel XVII secolo, che è un testo di 20 anni fa, del 1995, ma denso di riflessioni importanti. Lo strutturalismo, con uno dei suoi massimi scrittori, Roland Barthes, il suo studio sul sistema della moda. Poi per i materiali, soprattutto la teoria del restauro del 63 di Brandi. E poi, per esempio, cito a caso i marmi antichi curati da Gabriele Borghini, in cui vengono studiati tutti quelli che sono i marmi antichi provenienti dalla Grecia e dall'Egitto soprattutto, nonché dai monumenti romani più importanti del Palatino e quant'altro, che vengono riutilizzati nel tempo, soprattutto nello stato della chiesa, per creare materiale d'arredo o anche pavimenti, cominciando dai cosmatisti, da maestri di cosmati nel Medioevo per arrivare appunto a tutto il Settecento. Ed è molto interessante perché gran parte del contributo si deve a Raniero Ognoli, che è stato in Italia un esperto di marmi antichi formidabile. A livello di curiosità, soprattutto per le signore, vedo che ce ne sono di molte, e c'è anche un testo di Barry Hubert, che è il catalogo di una mostra che si è tenuta nel 2002, dedicato ai diamanti, arte, storia e scienza, in cui il diamante viene trattato sia come minerale, sia come gioiello, sia come emblema di potere all'interno di raffigurazioni scultoree oppure pittoriche. Poi ci sono varie, diciamo, curiosità. Per esempio, il testo di Werchter Pau sui furti d'arte, Napoleone e la nascita del Louvre del 1988. Quindi, diciamo, dei testi che potrebbero, uno si potrebbe chiedere, ma come mai ci sono questi testi in questo fondo? Ecco, questi derivano dal fatto che io nel 1981 ebbi dal sovrintendente l'incarico di mettere a posto i depositi di Palazzo Venezia e di capire un po' che cosa ci fosse nei depositi di Palazzo Venezia, dove accanto al mobilio e agli arredi delle varie amanti del Duce c'erano anche depositi giudiziari e depositi di guerra. Tra i depositi giudiziari ce n'erano di alcuni quadri che provenivano dalla collezione Contini Buonacorsi e che erano stati posti sotto sequestro, nominando il soprintendente pro tempore, che non mi ricordo chi fosse, insomma, a quell'epoca della disposizione giuridica, il museo di Palazzo Venezia, che li doveva conservare. Perché era successo, e per questo c'è un libro di Elsa De Giorgi, che è stata, oltre che una scrittrice, la moglie di Sandrino Contini Buonacorsi, l'ultimo di questa famiglia, l'eredità Contini Buonacorsi, l'ambiguo rigore del vero del 1988, in cui la scrittrice racconta le vicende di questa famosa e importantissima collezione fiorentina, che era fra l'altro notificata dallo Stato come collezione di grande interesse storico-artistico e che a un certo punto, per questioni, insomma, chiaramente uno preferisce realizzare anche allora, a un certo punto, trovando la via politica giusta, venne tolto questo vincolo e la maggior parte delle opere, soprattutto le più importanti, finirono all'estero, fra cui nacque da qui il grosso scandalo e finì anche sui giornali. Successe che si accorsero che l'unica natura morta di Zurbaran presente in Italia, che è una natura morta con limoni, era finita in America nella collezione Simon Norton e da lì al County Museum di Los Angeles. E Elsa De Giorgi racconta tutti, diciamo, i vari fattarelli collegati a questa vicenda. In altre casse, nell'81, tenete presente, nell'81, questa faccenda poi Contini Buonacorsi andò avanti per circa una decina d'anni prima che la magistratura decidesse di fare restituire questa decina di opere che erano rimaste in Italia, che comunque erano, sì, di relativa importanza, ormai i grandi capolavori non c'erano più, di farle avere agli eredi rimasti della famiglia, e quindi se ne sono riprese. Ma insomma, c'era una Madonna, insomma, del Cinquecento fiorentino, ma le altre erano tutte cosette. Mentre c'erano una ventina di casse chiuse, sigillate, impolverate, con scritto sopra Istria. Dice che cosa ci sarà dentro con i sigilli, per aprire, quindi essendoci i sigilli bisogna avere l'autorizzazione del superiore ministero, quantomeno del direttore generale. Allora incominciamo a scrivere alla competente direzione generale: abbiamo trovato queste casse con scritto sopra Istria, dovremmo aprirle perché sono molto impolverate, molto maridotte, vedere cosa c'è dentro. Possiamo avere l'autorizzazione? Nessuno rispondeva mai. Iniziamo ogni anno, 1981, me lo scrivo ogni anno sull'agenda più o meno, l'anniversario si riscriveva ogni anno. Nel 91 finalmente il direttore generale risponde: sì, aprite le casse e fateci sapere cosa c'è dentro nello stato di conservazione. Benissimo, apriamo le casse e ci troviamo dentro delle somme pitture di arte veneziana che venivano dalle chiese dell'Istria e della Dalmazia, che erano state, trovandoli dentro le casse, delle carte ingiallite, erano state portate dalla Società di Storia Patria di Pola all'inizio del 1943 a Roma. Per la parte archeologica stavano nella soprintendenza archeologica, per quello che riguardava invece le opere d'arte medievale e moderna a Palazzo Venezia, ed erano quadri su tela e su tavola e oreficeria. Per fortuna erano anche note alla bibliografia, perché erano state pubblicate in parte da Luigi Serra negli anni 30 in alcuni volumi azzurri che in genere ci sono nelle biblioteche nazionali, che riguardavano l'inventario delle opere d'arte scritte da Luigi Serra. Quindi si ricostruisce tutta questa storia, si fanno le foto, si dimostra che le opere insomma erano in uno stato di conservazione molto precario, e si chiede di poterle eventualmente restaurare. Nessuna risposta. Passano più di altri 10 anni, finché dunque non mi ricordo il governo Zanni, capitato come ministro del bene culturale, insomma sottosegretario per qualche mese, fu Sgarbi, una volta che venne a una inaugurazione a Palazzo Venezia con tutto il suo corazzo, insomma, di dame e damone, damine, dame, eccetera, gliene parlai confidando nel fatto che, essendo appassionato di pittura veneziana, insomma, gli entrasse un po' nella testa la necessità di fare fronte a questo problema. E infatti, per fortuna, reagì subito in senso positivo, e quindi, insomma, povero non volle vederli, fece subito un decreto di finanziamento per il restauro di queste opere, affidando alla soprintendenza di Trieste, mista di Trieste, l'incarico appunto di occuparsi della procedura di restauro e quant'altro. Poi però, forse, siccome il caratterino è quello che è, litigò con il ministro e sparì come sottosegretario. Però per fortuna, prima di sparire come sottosegretario, aveva già firmato questo atto amministrativo, e quindi i soldi c'erano. E le opere sono state restaurate e nel 2005 sono state esposte alla fine a Trieste, e quindi c'è il catalogo che si chiama Istria con l'H, il nome latino. Per dire che nell'ambito della storia dell'arte c'è di tutto, c'è la vita, anche non solo la storia dell'arte, le cose eccelse. Dunque, Sir Anthony Blunt, dice chi è costui? Sir Anthony Blunt è stato un famoso storico dell'arte inglese, ha studiato le teorie artistiche del Rinascimento. Della direzione c'è questo libro del 66 che si intitola Le teorie artistiche in Italia dal Rinascimento al Manierismo, ed è stato uno studioso fondamentale della pittura di Nicolas Poussin, di cui possedeva anche numerosi quadri e disegni, nonché è stato il curatore delle collezioni reali di Sua Maestà Britannica per circa 40 anni. Questo signore, malgrado il suo aspetto da gentiluomo molto compassato, io me lo ricordo con gli occhi chiari, molto molto inglese, in realtà era una spia. E a metà degli anni '80 venne fuori, la cui si chiama i servizi segreti di sua maestà, venne fuori che Sir Anthony Blunt insieme a Burgess e Kim Philby era il terzo uomo del gruppo dei cinque di Cambridge, che dal 1934 erano state spie al servizio dei russi, dei sovietici quanto comunisti. Al grande scandalo, finché sua maestà britannica gli tolse l'incarico di curatore, insomma, della collezione reale, ed era uno storico dell'arte. Poi, a livello appunto un pettegolezzo, questo no, una cosa piuttosto seria, è Anthony Tapies, che è stato vissuto fino a qualche anno fa, il marchese Anthony Tapies, uno dei massimi rappresentanti dell'informale internazionale dal 1948 ed è un famoso artista di Barcellona. Io ho avuto la fortuna di poterlo conoscere personalmente nel 71, quando insieme ad altri studenti della scuola di specializzazione dell'Università di Roma, insieme ai professori Brandi e Argan, facemmo un viaggio di studio in Spagna, visitando Madrid, Toledo e Barcellona. E a Barcellona Argan, che era molto amico di Tapies, riuscì ad ottenere il permesso di portarci nella sua abitazione, perché Tapies a quell'epoca nel franchismo era praticamente prigioniero in casa, non poteva uscire senza il permesso della polizia, né tantomeno ricevere. E quindi io mi ricordo questo fatto di questo pomeriggio, che dovevamo andare con i passaporti, lasciarli davanti al cancello della sua villa a Barcellona, e lì ce li prese la Guardia Civile. Il permesso era di un'ora soltanto per stare lì dentro, e mi ricordo quest'uomo gentile che poi alla fine della visita, no, si parlò solo di questioni di arte, per carità, però alla fine della visita donò a ognuno di noi un catalogo delle sue gouache con dedica, e quindi c'è proprio la dedica con la firma di Tapies del 71. Poi, per quello che riguarda il territorio del Trentino Alto Adige, uno studio di Marco Pupillo su uno stuccatore trentino, che non mi ricordo come si chiama, un attimo ve lo dico, Stefano Fuccari, stuccatore trentino a Roma, e la grande monografia di Christopher Unterberger di Chiara Felicetti, che, per concludere insomma il discorso con la Galleria Borghese, perché finiamo alla fine sempre lì, ha lavorato anche in Galleria Borghese nella sala 10, nella Volta, e per esempio nell'Ercole Annesso, dove c'è il fuoco, ha usato una foglia d'oro, questo a livello di informazione per voi che può essere interessante. E la grande monografia del 2003 di Sir Dennis Mount, dedicata a Guercino, visto che a San Domenico avete quella stupenda pala del 1654-55 con la visione di Soriano Calabro e con l'immagine della Madonna e Maddalena, Santa Caterina d'Alessandria, e lo stendardo con San Domenico. Non mi viene in mente altro, per non essere troppo noiosa. Direi che basta così. Grazie. Poi si deve sapere di più, già nel catalogo, titoli sono. sono meno dei volumi, perché i volumi delle volte sono tantissimi. Per esempio, ecco, c'è la storia della cultura in Italia dal 400 al 700, che sono 8 volumi, ed è interessante a livello di anche di proposta di studio, perché nel secondo volume di ogni secolo ci sono tutte le biografie sui vari artisti aggiornate con bibliografia all'anno, insomma, di pubblicazione. E l'edizione completa dei classici dell'arte, che erano in origine più di, non mi ricordo più se sono 110 o 112, pubblicati da Rizzoli negli anni tra il 60 e l'80, la cui ultima, due volumi erano dedicati a Turner, e che si interruppe all'improvviso nell'80, e che è stata nel ventennio 64-83-84, diciamo, la prima sperimentazione democratica, tra virgolette, di offerta editoriale di monografie di storia dell'arte a un prezzo accessibile, e venduti non soltanto in libreria ma anche nelle edicole. Mi ricordo che all'inizio uscivano settimanalmente, poi l'uscita diventò mensile, e poi quando capitava, insomma, alla fine con i due volumi di Turner si interruppe. La biblioteca ne possedeva una buona cinquantina già, di una nuova edizione che era stata collegata come offerta al quotidiano Corriere della Sera, ma evidentemente non so se per scelta editoriale o perché le matrici erano andate perse, non era completa, mancavano, non so, per esempio Cosmettura, la scuola ferrarese di Belandro Scultore, adesso insomma non mi ricordo, ma adesso è completa, comunque chi non vuole vedere lo può vedere. Ti ringraziamo Alba Costamagna. Adesso abbiamo capito il motivo del titolo di questa conferenza, che era appunto I miei libri e il filo rosso della memoria. L'impressione, ascoltando la nostra ospite questa sera, è proprio quello che ogni libro della sua biblioteca ha un motivo, ha una storia, un perché è finito in questa raccolta. È stato molto interessante, affascinante ascoltare la spiegazione, ecco, perché ci sono certi titoli, come sono arrivati in questa biblioteca. Ringrazio per la donazione e invito tutti, ecco, a visitare la nostra struttura, via Mendola 5, e a consultare il catalogo, dove troverete elencati tutti i libri che fanno parte di questo prezioso fondo. Grazie ancora.